Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Massimo Roberto Beato, che firma drammaturgia, adattamento dello spettacolo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, a Roma, allo spazio 18B, dal 19 al 31 marzo 2019. Massimo, ben trovato. Grazie, ben trovati voi, un saluto a tutti. Ci racconti di questa operazione? Sì, allora, questa operazione si iscrive, diciamo, nel nostro progetto triennale legato alla nostra compagnia di ricerca e sperimentazione e ha lo scopo in qualche modo di mettere in evidenza alcuni temi, tematiche su cui stiamo riflettendo in questi nostri anni. Buzzati ci ha dato l'ispirazione anche per parlare di quella che è la realtà attuale, generazionale in qualche modo, dei noi piccoli drogo che ci affacciamo, diciamo, alla fortezza. E, nel mio adattamento io metto in evidenza soprattutto il personaggio di Drogo arrivato alla fine della sua vita, che ripercorre tutto il suo percorso di vita e si interroga su che cosa l'ha portato poi alla fine alla locanda e a livello generazionale, come dire, cosa l'ha portato a questo tipo di percorso. È un lavoro che facciamo anche praticamente con Elisa Rocca, che cura la regia e anche l'ensemble di questo spettacolo, sull'attore. Riflettiamo un po' anche sull'attore, sul suo percorso, diciamo, di ricerca in questi ultimi anni. È una drammaturgia particolare quella che ho scritto, perché nasce appunto dal lavoro con la regista e quindi è una drammaturgia ad hoc. Il sottotitolo è Momento unico per tre attori soli, non perché avevamo a disposizione solamente tre attori, ma perché nell'ottica del lavoro di Elisa Rocca e anche mio, l'attore, non esiste un attore protagonista, un attore secondario, quindi non esistono personaggi principali o personaggi secondari, ma esiste l'attore nella sua totalità, che in qualche modo interviene nello spettacolo e produce senso. Quindi tutto lo spettacolo che vedrete è messo in scena soltanto da questi tre attori, che costruiscono ambienti, situazioni, interpretano personaggi e danno vita appunto al romanzo di Dino Buzzati. Ecco, all'interno del vostro percorso, come nasce questa scelta? Interessato ai temi della letteratura del Novecento, non sono nuovo agli adattamenti, infatti ho già adattato il romanzo Il Castello di Kafka qualche anno fa, è andato in scena al Teatro Vittoria. Ci piacciono questo tipo di tematiche perché sono tematiche che mettono in evidenza anche la crisi dell'essere umano, dell'individuo che si trova in qualche modo come dire, a confrontarsi con la realtà e con il sistema anche sociale nel quale è iscritto, nel quale si sente un po' sconfitto, un po', diciamo, fuori posto. E noi un pochino ci sentiamo fuori posto in questo questo sistema sia teatrale che culturale, sentiamo di non appartenere più a un sistema teatrale passato, che quindi aveva determinate anche logiche produttive, determinate logiche anche estetiche, ma allo stesso tempo non abbiamo ancora trovato un nuovo modo di fare teatro, un nuovo sistema. Quindi con questa operazione cerchiamo di costruirlo, diciamo ex novo, di costruire un nuovo linguaggio, un nuovo modo anche di affrontare la messa in scena, la drammaturgia. Non a caso poi in questi ultimi anni abbiamo anche messo su un vero e proprio teatro, in senso proprio pratico, che è lo spazio 18B, che fornisce a noi, come dire, il luogo, il set nel quale anche dar vita attraverso un meccanismo di ricerca ad un nuovo linguaggio anche attoriale. Sentiamo il bisogno proprio di un nuovo attore, e come tale il nuovo attore ha bisogno di una nuova drammaturgia e di un nuovo di una nuova anche idea di regia, che si incarna moltissimo in Elisa Rocca, che è una regista, diciamo, diversa rispetto al solito regista autoritario gerarchico, ma lei più che altro è una direttrice di ensemble che con il suo lavoro come dire, porta l'attore anche ad una consapevolezza creativa diversa rispetto invece al passato, dove spesso e volentieri è stata una macchina nelle mani di un regista, visionario o meno che fosse. Della scrittura di Buzzati cosa apprezzi in particolare? Ma il romanzo ha moltissimi, insomma, numerosi detrattori, devo dire la verità. Io in realtà invece ho trovato che fosse estremamente visionario per certi versi e anche teatrale nel suo impianto, e quindi quello che mi ha affascinato sono state sicuramente le situazioni che lui mette in vita in questo romanzo, anche i movimenti interiori di Drogo, gli ostacoli con cui si trova a confrontare costantemente, quindi in realtà ho apprezzato moltissimo il linguaggio, sicuramente, che cerco di mantenere anche nell'adattamento, però la storia e l'impianto, diciamo, evocativo e onirico che lui mette in evidenza, tanto che rispetto ad esempio alla trasposizione cinematografica, noi qui a teatro siamo volutamente meno realistici nella nostra messa in scena e cerchiamo di rendere in maniera più evidente anche l'aspetto più grottesco in qualche modo che è tuttavia presente nel romanzo. Visto che c'è l'evento Facebook, ci dai altri riferimenti anche rispetto alla compagnia sul web per saperne di più? Assolutamente, noi abbiamo la nostra pagina web che è Teatro Spazio 18B ed è la pagina del teatro, associata anche alla pagina istituzionale della nostra compagnia, che è la Compagnia dei Masnadieri, e ci potete trovare tranquillamente nelle nostre pagine istituzionali su Facebook. Lo spettacolo viene in scena, oltre a me, anche Matteo Danganelli e Alberto Melone, e Jacopo Pezzi, che è il nostro regista, diciamo, di busta dell'Accademia, presente della nostra compagnia, è presente anche qui in veste di allestitore scenografo dell'impianto. Siamo in scena dal martedì alla domenica alle ore 21, mercoledì, domenica facciamo pomeridiana alle ore 18. Bene, ricordiamo allora lo spettacolo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati allo spazio 18B a Roma dal 19 al 31 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Roberto Beato, che ne ha firmato drammaturgia e adattamento. Massimo, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede. Grazie. A teatro. A presto. Ciao. Con Valentina Martino Ghiglie e Francesca Romana Miceli Picardi per parlare della rassegna Diritti al Belli a Roma al Teatro Belli dal 19 marzo al 14 aprile 2019. Ben trovate. Ciao. Ciao Fede. Allora, una domanda per una. Cominciamo con presentare questa rassegna. Di cosa si tratta? La rassegna è una rassegna che noi abbiamo fortemente voluto sui diritti che in questo momento ci sembra siano vagamente sotto scacco.

un attimo che volevo aggiungere una cosa fondamentale. Sì. Noi facciamo questa rassegna col sostegno della Regione Lazio, il patrocinio del primo municipio Roma Centro e il patrocinio della Lidu Onlus, che è la Lega Italiana dei diritti dell'uomo, e l'aiuto di Radio Rock, che ci aiuta con la pubblicità e con un sostegno proprio reale. Questo era doveroso dirlo, ecco. E allora un saluto e un ringraziamento alle curatrici Valentina Martino Ghiglia e Francesca Romana Miceli Picardi, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. E ti aspettiamo ovviamente martedì, che c'è l'inaugurazione della rassegna alle 19.30, il 19. Perfetto, un abbraccio. Testone con DJ set. Ci vediamo lì. Va bene, ci vediamo martedì. Ciao. L'autore, regista e attore Pierpaolo Saraceno e l'attrice Maria Paola Tedesco presentano il loro spettacolo La donna che disse no, all'interno della rassegna Diritti al Belli a Roma, al Teatro Belli, giovedì 21 marzo 2019. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Grazie. Maria Paola, Sicula? Sì. Di dove? Sono di Augusta, provincia Siracusa. Senti, come sei arrivata al progetto dello spettacolo? Sì, allora ci sono arrivata grazie a Pierpaolo Saraceno, che ovviamente ha scritto quest'opera e quindi mi ha proposto di interpretare il ruolo di Franca, ma diciamo, ecco, tengo a precisare che La donna che disse no è tratta liberamente dalla storia di Franca Viola, quindi io interpreto lei, ma interpreto un po' tutte le donne che purtroppo sono state vittime, insomma, di violenza. Quando mi ha proposto questo progetto, inizialmente molto impaurita, perché comunque è tosto come personaggio, come ruolo, e da un punto di vista emotivo, da un punto di vista fisico. Quindi amo le sfide, chiaramente amo questo lavoro, per cui non dico no, ecco, in questo caso, ma ho accettato assolutamente la proposta e da lì mi sono messa, insomma, al lavoro e abbiamo studiato, ovviamente lui ne fa anche la regia, per cui mi dava le indicazioni e finché siamo arrivati a questo punto. 80 giorni di allestimento, incluse le sfumature, quindi è tutto quanto. Mm-hmm. Che poi la struttura, diciamo, è stata messa su in una quarantina di giorni. Mm-hmm. Però abbiamo lavorato tanto sui personaggi. Mm-hmm. Abbiamo contro la nostra volontà dovuto comunque intervistare determinate persone che magari in un modo o in un altro avevano subito violenze, giusto per essere veritieri in ciò che dovevamo esplicare in scena. Quindi Maria Paola l'ha accolto in pieno, infatti non possiamo fare, tutto lo staff di Unire del Sud, non possiamo fare altro che ringraziarla, ecco. Grazie. Senti Pierpaolo, tra l'altro è la terza volta che sei qui con noi al Radio Teatro. Sì. Con Peppino Impastato la prima volta, quindi la Sicilia comunque nei tuoi lavori è ben presente. Volevo chiederti com'è nata l'esigenza di questo lavoro, raccontaci un po' da come è partito. Allora, io parto dal fatto intanto che La donna che disse no è la seconda opera di una trilogia del sociale, appunto Peppino, Radio Out, la voce di Peppino Impastato. La donna che disse no è la terza opera di Onirica del Sud, che io non avevo mai deciso di volare, che tratta tratta l'emigrazione degli anni 40, Palermo, Buenos Aires. Questa è nata dall'esigenza di voler dire un qualcosa, così come è nata tutta la trilogia intera. Perché alle volte siamo stati anche un po', tra virgolette, criticati, nel senso, ma perché porti in scena soltanto opere drammatiche, sai, in Italia non ne possiamo più, abbiamo bisogno di ridere, semplicemente perché abbiamo ancora un qualcosa da lanciare, abbiamo voglia di urlare, così come lo è stato in passato, così come lo è stato Franca Viola e così come lo sarà il nostro Cicciuzzo, che è terzo personaggio insomma dell'opera. E quindi semplicemente dal fatto, sai, quando nasce un'opera del genere non la programmi mai, non è una cosa prefissata, no? Semplicemente hai un'esigenza di, ok, così come lo è per gli attori in generale, sì. Quindi quell'esigenza di esprimere un determinato concetto, e quindi la stessa cosa nella scrittura, non pensavo minimamente appunto a quello che dovevo portare in scena, soltanto che ascoltando e riascoltando, vedendo e rivedendo determinati programmi in TV, leggendo diversi libri, mm-hmm. è un qualcosa che mi ha scosso come una botta di corrente elettrica, e quindi sono, ripeto, contento che il nostro messaggio sia arrivato anche in determinate scuole, perché noi lavoriamo anche, uh-huh. facciamo matinee anche per le scuole, università, insomma serate legate a, diciamo, determinate associazioni, quindi ecco, uh-huh. è nata dall'esigenza, dalla voglia di raccontare un qualcosa. Non è stato facile, perché siamo stati, diciamo, presi da diversi incubi notturni, perché pensare ad una cosa del genere quotidianamente e costantemente non è semplice, sia da parte mia, appunto, che ne ho la regia, sia da parte dell'attrice Maria Paola, protagonista dell'opera, non è stato per niente facile. Tant'è vero che ci sentavamo anche alle volte in orari notturni per dire: senti, io sono stato scosso da, sai che mi è capitato pure ieri, ecco, quindi di conseguenza diciamo che abbiamo voluto regalare un nocciolo, uh-huh. sul quale bisogna riflettere, quindi non bisogna parlarne, perché io me ne accorgo, la maggior parte della popolazione italiana ormai a queste determinate tematiche, diciamo, ci approcciamo, le ascoltiamo con indifferenza. Uh-huh. Vabbè, dai, tranquillo, tanto è normale, tanto è già successo. Non è successo, non è normale. E quindi questo è il motivo per cui abbiamo scritto La donna che disse no. Uh-huh. A parte il cambiamento di una legge, della legge, cioè dell'articolo 544, quindi, che fortunatamente grazie a Franca Viola è stato abolito. Aggiungo appunto che secondo me il teatro, sì, come ci è capitato, già ce ne sono tante, ridiamo un po'. D'altra parte penso anche che si ride tanto dove non si dovrebbe ridere. E quindi, beh, non, chiudo una parentesi, perché comunque se l'apro non finisco più. E quindi credo che in questo caso ci vuole anche questo tipo di teatro, perché non è quel drammatico che devi strapparti i capelli o piangi dall'inizio alla fine. È un drammatico nel senso che comunque è una storia, lasciando, è vera, ok, che in questo caso sia vera, ma anche se non lo fosse, ad esempio, una storia drammatica in sé, comunque lancia un messaggio, e a maggior ragione questa, che è una storia vera, cioè oltre a lanciare questo messaggio, comunque è anche cultura. Perché tante persone, tanti ragazzi, anche siciliani, non conoscevano Franca Viola. Alcuni non conoscono neanche Peppino Impastato. Sembra assurdo, certo, ma è vero. Certo. Quindi tramite uno spettacolo teatrale poter anche far cultura in questo senso è bello. E i ragazzi lo apprendono in maniera diversa. Sicuramente un concetto che non si scordano come due o tre pagine di un libro. Un'altra cosa, se posso aggiungere, che mi ha colpito tantissimo è stato anche il lavoro approfondito del nostro compositore musicale, appunto Concetto Frusciano, perché mi ricordo, vabbè, noi a parte siamo amici di vecchia data, quindi sin da bambini, no? Mi ricordo l'anno scorso, appunto, avevo detto chiaramente: Concetto, io devo trattare questa tematica, uh-huh. e vedi un po', perché non avevo la più pallida idea nemmeno delle musiche che bisognava utilizzare all'interno dell'opera. Io ti dico che non ho detto altro, ho raccontato semplicemente la storia, sì che dopo un tot di giorni mi sono arrivate le composizioni. Quindi piangevo io, piangeva lui, piangeva l'attrice, ho detto bene, abbiamo fatto bingo, quindi ne approfitto anche per ringraziare Concetto Fruciano, il nostro compositore, il nostro fotografo di scena Daniele Manzella e poi tutti coloro che ci supportano. E l'esperienza onirica del Sud, Pierpaolo? È una tragedia, è una follia. Onirica del Sud è nata 3 anni fa, no, un po' di più, 4 anni fa. Onirica del Sud è nata in uno scantinato a Monteverde, dove appunto avevo casa, e non è stato altro che inizialmente un circolo ricreativo dove si faceva cultura e tanto buon vino. No, scherzo, comunque si scriveva, si interpretava, eravamo diversi attori, poi c'era appunto chi va, chi veniva, è stato uno scambio culturale davvero pauroso. Alla fine, come si dice, i filtri sono venuti da sé e siamo rimasti in pochi, cioè, nel senso, abbiamo anche degli altri attori, danzatori che subentrano, e quindi, ripeto, da questa follia si studiava tanto, ci si confrontava tantissimo, sicché nasceva prima la prima opera, poi l'altra ancora, e la fortuna, cioè non so se chiamarla fortuna o meno, sì, penso di sì, insomma, è stata che dalle opere appunto che abbiamo scritto, tanti teatri italiani, quindi dalla Sicilia al Lazio, insomma alla Lombardia, ci hanno chiamato per debuttare con le nostre opere. Questa è stata per noi, diciamo, una svolta. È così, forse è il fato, non lo so, le opere che funzionano, non te lo so dire, però ecco, questa è. Lasciamo anche i riferimenti web per saperne di più. Allora, pagina Facebook, basta cercare Onirica del Sud, Con la K. Con la K, esatto. Onirica K-A. E poi invece per quanto riguarda il sito è www.oniricadelsud.com. Perfetto, ancora grazie, ancora complimenti. Grazie a te. Grazie a voi. Tanto prima o poi tornerete qui. Assolutamente. Sì. Ormai è un appuntamento. La donna che disse no. All'interno della rassegna Diritti al Belli a Roma, al Teatro Belli, giovedì 21 marzo 2019. Regista Giorgina P. presenta lo spettacolo Settimo Cielo di Caryl Churchill a Roma al Teatro India dal 19 al 31 marzo 2019. Giorgina, ben ritrovata. Ciao, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Per chi ci ascolta, diamo subito qualche indicazione. Presentiamo questo Settimo Cielo. Settimo Cielo è uno dei capolavori di questa straordinaria drammaturga inglese che è Caryl Churchill, considerata un mito, un pilastro della scrittura teatrale in Inghilterra e in molti altri paesi, ma misteriosamente poco conosciuta in Italia, direi quasi sconosciuta. E Settimo Cielo è uno dei testi che ci ha appassionato, uso questo plurale perché io faccio parte del collettivo dell'Angelo Mai e in particolare del collettivo Blue Motion, e con questo gruppo di persone da qualche anno ormai stiamo curando un progetto intorno a questa autrice. Settimo Cielo in particolare è un testo del 1979 ed è un viaggio proprio tra le politiche del sesso, argomento che in quel momento interessava molto a Caryl Churchill e alla compagnia Joint Stock con cui lavorava. E vive di un paradosso questo testo, nel senso che ha due ambientazioni completamente diverse che cambiano dal primo al secondo atto. Il primo atto è ambientato nell'Africa coloniale, dove c'è questa famiglia di coloni inglese che si trasferisce in Africa e diciamo che vive le anomalie del rapporto del colonialismo attraverso dei segni scenici che ci indica l'autrice, vale a dire alcuni personaggi maschili sono interpretati da donne e viceversa, neri da bianchi, una bambina interpretata da una bambola. E tutto questo perché l'autrice tende continuamente a sottolineare il parallelo tra oppressione coloniale e sessuale,

Allora, ce n'è uno domenica 24 alle 17 alla libreria Trapezzista di Trastevere, un incontro con Gaia Cenciarelli, lo spettacolo, e un altro incontro alla libreria Tuba del Pigneto con Lorenza Indovina, che è un'attrice, una mia cara amica, e anche qui presentiamo la trilogia in questa bellissima libreria. Quindi ci sono questi due incontri. Bene. E allora ricordiamo la trilogia Arvigo a Roma al Teatro Torlonia dal 1 al 31 marzo 2019 con 448 Psychosis dal 1 al 3 marzo, Il dolore il 23 e 24 marzo, Una ragazza lasciata a metà 30 e 31 marzo. Un saluto e un ringraziamento ad Elena Arvigo. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Reti, e vi ringrazio per questo spazio. Grazie. Grazie mille. Alla ciao. Prossima, ciao. Alla prossima, ciao. Con il regista attore Amandio Pigneiro e l'attrice Laura Nardi per presentare il loro spettacolo Va tutto bene a Roma al Teatro Belli all'interno della rassegna Diritti al Belli 23 e 24 marzo 2019. Ben trovati. Grazie, buongiorno. Descriviamolo subito. Allora, questo spettacolo nasce già qualche anno fa da una voglia di parlare di un rapporto che le Nazioni Unite hanno fatto per esporre una problematica molto complessa che è i cambiamenti climatici. Uno scienziato l'ha scritto, David Marsal, e ha fatto in modo che il tema viene avvicinato con l'umorismo. Questo ovviamente è insolito perché sono temi seri, perché normalmente si procura un approccio molto preciso e scientifico. Invece qua abbiamo deciso di fare una provocazione, soprattutto per un pubblico più giovane che è abituato a sentire queste cose in un modo un po' noiosetto e quindi non si svegliano mai. E abbiamo deciso proprio di fare questa provocazione mettendo sulla bocca di questo personaggio, uno scienziato negazionista, che dice una serie di barbarità, in modo che precisamente lo spettatore si sveglia a quel punto e comincia a pensare: ma cosa mi stanno cercando di vendere qua? Questo meccanismo funziona bene, l'abbiamo già applicato in altri ambiti, sempre di teatro e scienza, nel senso che quando un ragazzo, quando un giovane sente una stupidaggine, subito c'è qualcosa lì che lo sveglia e ci permette poi di, attraverso questa provocazione, di arrivare al punto, cioè di farlo pensare a quello che probabilmente è la verità, cioè che stiamo cambiando il clima del pianeta, o il pianeta sta avendo delle trasformazioni che noi non possiamo continuare a controllare, quindi la vita su questa nostra casa è a rischio e quindi bisogna darci una svegliata. E anche lo spettacolo viene da un premio che è stato attribuito dalla ExxonMobil Oil, la Esso in Italia, per premiare i scienziati che scoprivano degli errori nel rapporto dell'ONU. Queste cose sono frequenti, non pensiamo tanto, ma sono veramente frequenti, e quindi si investe tantissimi soldi in negazionismo. Quello che facciamo qua è cercare di fare l'inverso, cioè non è che abbiamo tanti soldi, ma stiamo con la nostra arte provando a fare quello che fanno le grandi compagnie multinazionali che se ne fregano completamente dell'ambiente del pianeta. Laura, come avete organizzato il lavoro insieme? Come lavorate? Magari raccontiamo anche la storia di questo spettacolo, nel senso che questo spettacolo nasce in Portogallo nel 2008, credo, più o meno, con un altro titolo che era Aquecimento Esclarecido, cioè Riscaldamento Illuminato, con la coproduzione del Teatro da Trindade di Lisbona, che è un grande teatro portoghese. E abbiamo avuto subito un enorme successo e riconoscimento di pubblico, per cui siamo riusciti a portarlo in tutto il Portogallo, sia all'interno dei laboratori scientifici, sia all'interno di teatri convenzionali e sia nelle scuole. Poi è volato in Brasile, quindi in Brasile dove? Dove siamo stati a Rio, San Paolo, e altre piccole città brasiliane. Poi nelle isole Azzorre, e veramente con grande fatica ci abbiamo messo tutti questi anni, cioè ti sto parlando dal 2008 a oggi, per riuscire a portarlo in Italia. E non è che non ci avessimo pensato prima, cioè è veramente stata una via crucis di proposte ovunque, cercavo di come era stato tanto semplice lì, è stato tanto complesso qui far capire che poteva trasmettere, che uno spettacolo così satirico, umoristico, poteva trasmettere un messaggio importante. E siamo riusciti a allestirlo in italiano solo l'anno scorso al festival, grazie al Festival di Teatro Scienza organizzato a Torino, e poi ora grazie alla Casa Internazionale delle Donne finalmente lo proponiamo anche a Roma. È stato un lavoro, la prima volta quindi io ti parlo della mia esperienza, perché ovviamente adesso ho lavorato solo sulla traduzione. La prima volta che l'ho visto, io mi ricordo, sono assolutamente ignorante da un punto di vista scientifico, lo ammetto, però lo leggevo e continuavo a ripetere a lui e a David Marsal, che è l'autore, ma questo è vero? Cioè veramente centigradi viene da centella? Quindi il primo approccio è stato vero falso, probabile. Poi così, poi l'ho studiata a memoria. Sì, c'è un uso eccessivo qua delle statistiche. Le statistiche possono essere manipolate a favore di qualsiasi opinione, ed è questo che anche il testo ha una critica esplicita al rapporto delle Nazioni Unite, che usa espressioni estremamente ambigue. E il linguaggio, cercando di semplificare un problema così complesso, poi diventa veramente, si può dire tutto e il contrario di tutto, e questo è molto pericoloso quando stiamo parlando del nostro futuro, delle future generazioni, che devono sapere chiaramente dove siamo e come va a finire con un eventuale innalzamento delle acque del mare, degli oceani, e quindi è, cioè, una serie di cose che alla fine si sciolgono in questo bla bla bla scientifico, e noi che siamo artisti, che siamo attori, e la nostra compagnia che si chiama Causa e che frequentemente fa questo aggancio tra scienziati e artisti e teatro, e noi mettiamo a disposizione della scienza questo modo diverso di divulgare, che ovviamente ha dei risultati immediati. E in Portogallo, credo più che in Italia, questo lavoro è già una certa solidità, e quindi è frequente vedere gli scienziati che fanno teatro e teatranti che fanno scienza. E questo è bello da vedere, perché la scienza noi la vediamo oggi come una cosa estremamente complessa e specializzata, a cui la maggior parte di noi non ha accesso, ma la scienza non era così. Quando Darwin ha scritto L'origine delle specie, si discuteva nei treni, per strada, e soprattutto questa idea che noi abbiamo molto, o perlomeno io ce l'ho come regista di questi spettacoli che incrociano teatro e scienza, che una conferenza scientifica non può non essere uno spettacolo. Se non lo è, anche una lezione, una semplice lezione a scuola, un maestro, un professore è anche un attore, persino un prete lo è, ma parliamo di ambiti più concreti. Ma a scuola, un professore davanti al suo pubblico di studenti, quando deve parlare di un tema come i cambiamenti climatici o qualsiasi altro tema scientifico, deve sapere in qualche modo illuminare, infuocare questa conoscenza e la curiosità. Lo strumento, diciamo, più ovvio e facile che noi usiamo è l'umorismo, è la provocazione. E le immagini. E le immagini. Questo spettacolo è fatto con grafici, con immagini di politici, con tutta una serie Perché lo spettacolo, Amandio, diciamolo, è anche, non solo è una presa in giro dei negazionisti, non solo solleva delle criticità sul rapporto delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ma è sulla falsa riga del, ti ricordi la scomoda verità di Al Gore? Esatto, di quel documentario, per cui come Al Gore, che ha fatto un bellissimo lavoro, ma anche lui è assolutamente ambiguo, come Al Gore poneva grafici ovunque, e così noi sulla falsa riga di Al Gore poniamo grafici da tutte le parti. Quindi cose come l'estinzione delle specie vengono relazionate con l'aumento della pornografia, o gli orsi polari che sono depressi, tutta una serie di dati che, per il fatto che sono state scritte da un scienziato, da un chimico, David Marsal, suonano plausibili a un primo approccio. Poi ovviamente da un certo punto in poi si capisce che c'è la presa in giro, ma fino a un certo punto tutto è possibile. Per il semplice fatto che i cambiamenti climatici è un tema complesso, dal quale dobbiamo ancora trovare delle spiegazioni più ampie, e quindi usando questa ambiguità che c'è nel capire il rapporto tra la farfalla che batte le ali a Tokyo e provoca una tempesta a New York, c'è molto da dire, e dobbiamo veramente mettercela tutta per capire il più possibile questo complesso sistema. Fatto sta che dobbiamo cambiare il nostro modo di vita, quello è, sia per i negazionisti sia per quelli che ci credono, cioè non c'è, i numeri sono chiarissimi, chiarissimi, non il pianeta, c'è questo matematico che diceva che i politici non capiscono niente di scienze, per questo fanno quello che fanno, e lui diceva: immaginiamo una bottiglia con dei batteri che si riproducono a ogni minuto, quindi a ogni minuto c'è il doppio del numero di batteri dentro questa bottiglia. Mettiamo un battero a mezzanotte e a mezzogiorno meno un minuto la bottiglia è a metà, quindi stiamo tranquilli, pensiamo ci metteranno, no, perché a mezzogiorno sarà piena, perché quella metà si riprodurrà e diventerà piena. Quindi il nostro pianeta è quello, cioè l'esponenziale è qualcosa che noi all'inizio non ce ne importa tanto perché non vediamo, però l'accelerazione è imminente, da un momento all'altro, e ci... Si inserisce, e andiamo a concludere, nella campagna della Casa Internazionale delle Donne chiamata alle Arti, questo spettacolo il 18. Sì, tutti sappiamo qual è la situazione della Casa Internazionale delle Donne, e, insomma, gli è stato tolto il patrocinio dal Comune di Roma, sono andati fino alla Comunità Europea, e veramente quindi ci sono tutta una serie di artisti che stanno appoggiando la casa con i propri spettacoli o con conferenze o con interventi musicali per correre in aiuto della casa. Io devo dire che veramente non capisco come sia possibile continuare a ostinarsi, andare contro questa realtà che è di supporto a una miriade di persone, e ne parlo proprio da un punto di vista personale, perché per me è il luogo di riferimento come donna ogni volta che succede qualcosa. Spero che il Comune di Roma torni indietro, mi sembra proprio un'ostinazione senza giustificazione. Capisco che vogliono resettare tutto il mondo dell'associazionismo romano, ma bisogna fare dei distinguo. Ci sono delle realtà che devono restare intoccabili, e quella è una di queste. Ok. Tornando allo spettacolo, ci dai tutti i riferimenti web per la compagnia e per... Allora, su Facebook appariamo come Teatro Causa, abbiamo un sito internet che è teatrocausa.wordpress.com, e potete prenotarvi o chiedere informazioni all'indirizzo email causa.ac.it@gmail.com. Un saluto a Laura Nardi e a Mandy Pigneiro. In bocca al lupo e a presto.

che per questo weekend propone, ripropone Alessia Berardi e Ferdinando Vaselli. 23 e 24 marzo presenteranno questo Paura e Delirio. Io ne ho visto soltanto una parte in realtà, ed è un lavoro che insomma va a che vedere con la periferia. Due fratelli che sono nella stessa casa dove sono nati, in Italia hanno comprato la loro casa e loro non hanno i soldi per pagare la vita. Chiaramente un po' il grottesco, cioè, è il grottesco con cui si tratta il razzismo che imperante purtroppo in questo nostro mondo recente. Poi ti porto appunto, come si ragionava un po' prima, insieme al Teatro Torlonia, dove Elena Arrigo presenta il secondo appuntamento della rassegna lei dedicata 23-24 marzo con Il dolore di Marguerite Duras, la grande scrittrice francese, il suo diario biografico scritto a Parigi quando aspettava il ritorno di suo marito depostato, Dachau, pubblicato dopo 40 anni, racconta gli ultimi giorni di guerra nell'aprile del 45, una testimonianza storica, ma anche una testimonianza emotiva degli stati d'animo, della profondità, del coraggio di questa donna. Quindi 23 e 24 marzo per Elena Arrigo al Teatro Torlonia con Il dolore. Ti porto anche al Teatro Tor Bella Monaca perché per questo weekend è previsto Molto rumore per nulla, William Shakespeare con la regia di Domenico Fantano, sabato 23 e domenica 24 marzo, una commedia shakespeariana ambientata a Messina, che è stata sempre considerata una commedia romantica per i temi amorosi, in realtà diciamo ha una profondità tragica che un po' mescola l'elemento comico. Quindi questo weekend più andiamo anche al Teatro Tor Bella Monaca per Molto rumore per nulla. Poi comunque ti porto al Teatro Centrale Preneste perché c'è anche qualcosa per i più piccini, ovvero sia domenica 24 marzo alle 16.30, come di consueto, Le stelle di sotto, un gnomo chiamato Cucuzzolo, Tiziana Lucatini, Fabio Traversa, al Centrale Preneste, fanno questo lavoro per i bambini che tutte le domeniche pomeriggio ospita uno spettacolo e sono sempre strapieni, bambini dai 3 ai 10 anni in questo caso, anche per le famiglie. È una cosa molto bella, io insomma spesso mi capita di stare lì attorno e vedere queste famiglie che vanno a teatro a portare questi gnometti, e in questo caso è proprio lo gnomo che vuole fare la vita dei suoi fratelli, Cucuzzolo, che lavorano in miniera, come da sempre fanno gnomi e nani, lo sappiamo ovviamente che i nani e gli gnomi non fanno altro che lavorare in miniera. Al Teatro Palladium invece, Federico, da giovedì 21 a domenica 24 andremo a vedere in prima nazionale La scomparsa di Majorana. La regia è di Fabrizio Catalano, ovviamente il testo è di Leonardo Sciascia, come insomma ormai da tantissimi anni, un testo molto noto, e tra l'altro Fabrizio Catalano pare sia il nipote di Sciascia, ecco questo è un dato biografico non male, che racconta appunto la vicenda della presunta morte avvenuta nel 1938 di questo giovane promettente fisico siciliano, appunto Ettore Majorana, uno dei grandi promettenti fisici scienziati di quella generazione, come sappiamo insomma da ormai letteratura, cinema e storia mescolate insieme insomma la grande generazione che poi cambierà le sorti della scienza non solo italiana ma internazionale. Quindi appunto giovedì 21, domenica 24 marzo per La scomparsa di Majorana di Sciascia al Teatro Palladium, che ogni tanto si fa vivo. Poi ci segnalano come al Cometa Off regia di Alessio Di Clemente, Petrolio, una storia a colori, un spettacolo scritto da Beatrice Gattai, sensibile, dedicato, una storia d'amore ma non romantica, parla di evoluzione, un frammento di vita che suggerisce cosa può accadere ad un essere umano quando oltrepassa quella che possiamo definire forse sì la linea del fuoco, quando cioè si trova ad attraversare quei passaggi dell'esistenza che possono distruggerlo in un attimo oppure prenderlo una persona a lui. Quindi un punto di non ritorno, quello di Petrolio, lo andremo a vedere da questa sera fino a domenica 24 marzo al Teatro Cometa Off. Abbiamo il Teatro Arcobaleno, pensa, andiamo anche nel classico, da Euripide e Cuba, la regia di Giuseppe Argirò e Francesca Benedetti sarà la protagonista di questo lavoro storico. Francesca Benedetti è un'attrice, insomma, anche lei particolarmente di gran carriera, sarà in scena dal 23 al 31 di marzo, in scena è appunto Ecuba, la regina di Troia, che incarna la sofferenza consumata nella disperata solitudine. Troia è caduta, le donne attendono una sorta di debata a quelli che sono i vinti e quindi il tragico che c'è in Ecuba molto molto profondo lo andremo a vedere al teatro Arcobaleno dal 23 in poi. Ancora ci segnalano come al teatro Marconi, Voci dal cortile di Edna Mazzia, credo si pronunci in questo modo, sarà in scena con la regia di Enrico Maria Lamanna dal 21 al 24 di marzo. Quei giorni per vederlo, Voci dal cortile, siamo nell'estate dell'86, c'è una violenza dolorosa perpetrata ai kibbutz Som Shomrat nel nord di Israele. L'intero paese è scioccato. Un tragico fatto che diventa ispirazione per il grande successo teatrale della drammaturgia israelita al Teatro Marconi dal 21 al 24 di marzo. Allo Spazio Diamante invece qualcosa ancora, perché torna Josep Maria Miró, il drammaturgo catalano, con Nerium Park, lo spettacolo è diretto da Mario Gelardi, in scena ci saranno Alessandro Palladino e Chiara Baffi, che è un'interprete storica degli spettacoli di Miró. Dopo appunto aver visto Il principio di Archimede la scorsa settimana, Nerium Park richiama l'ambientazione della storia appunto in questo parco fuori città circondato da alti oleandri. C'è una giovane coppia che decide di acquistare un appartamento di nuova costruzione che apparirà a loro come un'oasi di felicità. Ma cosa succede? Diciamo, nel tempo, col passare di mesi, si accorgono di essere gli unici abitanti del parco che entrano così all'interno di una percezione un po' assurda della loro vita di coppia e nessuno vuole più la loro casa. E mi ricorda un po' un vecchio racconto di Ballard questa cosa, non male, mi stimola un po' ad andarlo a vedere. Quindi assolutamente da non perdere anche Nerium Park il 21-24 marzo allo Spazio Diamante. Poi al Vascello andremo anche perché anche qui abbiamo Tindaro Granata con la bisbetica domata da William Shakespeare, debutto romano, diciamo, ecco, regionale, debutto condominiale, non lo so come lo segnalano, ogni tanto c'è qualcosa che mi fa sorridere, e 19-24 marzo da questa sera al Teatro Vascello per questo lavoro in costume, tutto sommato, un classico un po' rivisto, effettivamente, una delle prime commedie shakespeariane. Fa ridere anche perché è piena di atrocità e di rapporti un po' così confusi, dove l'amore non è amore ma interesse, c'è cioè la finzione che è uno degli ingredienti più forti, diciamo, del testo. Il gioco del travestimento porta a rendere ben l'idea, insomma, di questi cuori selvatici da domesticare. Quindi dal 19 questa sera al 24 di marzo, la bisbetica domata al Teatro Vascello. Al teatro invece, come si chiama? Off of Theater, eccolo qua, con il trio Antinori, Purgatori, Sabatini, per andare a vedere Loose Ends, tutti attori under 30, a quanto pare, sì, tre giovani attori under 30, è diretta da Armando 40, e esplora temi universali come l'amicizia, i conflitti generazionali, il passaggio dall'adolescenza alla maturità. Da questa sera fino a domenica 31 marzo, Off Theater. Ancora abbiamo un po' di cose. Teatro Studio 1, è una settimana molto piena, per andare a vedere questo progetto di Tristezza Ensemble, con regia di Viola Marietti, si chiama Amore, lui e lei, non più bambini, non ancora adulti, o forse nessuna delle due cose. Lui e lei, nell'occhio del ciclone di una tempesta ormonale, abitanti di un luogo delicato, fatto di contraddizioni, incoerenze, insomma, l'adolescenza, anche qui sarà sotto la lente di ingrandimento, dal 21 al 24 marzo, Teatro Studio 1, Torpignattara, per chi volesse andare. Sì, andiamo anche al Teatro Lo Spazio, perché c'è Caterina Gattini con Messico in nuvole, questo lavoro di Messico passionale, sensuale, conosciuto attraverso gli artisti, pittori, pittrici, poeti, fotografi, tutti gli scatti, soprattutto quelli di Henri Cartier-Bresson, fatti negli anni 30 e negli anni 60. Quindi questo sogno messicano è quello che porta in scena Caterina Gattini dal 20 al 23 marzo al Teatro Lo Spazio. Poi andiamo al Teatro Eliseo, dove una sala grande c'è ancora e ovviamente Gabriele Lagna, Il gigante della montagna, ma 21 marzo Furio Andreotti alla regia, ma via con Massimiliano Bruno ci sarà il ritorno di Zero. Sono cinque ragazzini che trascorrono una vacanza insieme, i loro sogni si scontrano con la realtà di una brutta storia di sangue che li coinvolge in prima persona e disegnerà tutta la vita. In una stazione dei carabinieri in un paesino calabrese, un maresciallo si interroga, si sta interrogando un giovane postino su un fatto che è avvenuto tempo addietro, e si parte dall'estate del 1982, una storia rievocata, un'indagine, un thriller, dal 21 marzo al 31 marzo al Teatro Eliseo. Poi ancora andiamo al Teatro Branca Cin, perché sempre un po' particolare, da romanzo teatrale di Mikhail Bulgakov, in Russia, Classici del secolo futuro, viene chiamato, dal 21 e 22 marzo, per vedere in scena questo Odio Stanislavski, questo lavoro, appunto vedremo al teatro Brancaccino, scritto e interpretato da molti attori, probabilmente parte della scuola del Brancaccio. Max Sudov lavora come giornalista presso una rivista letteraria e sogna di vivere scrivendo libri, ma la strada è ricca di ostacoli. Cosa succede quando Max Sudov si affaccia in teatro? Lo andremo a scoprire al Teatro Brancaccino il 21 e 22 marzo. Poi, ultimi tre teatri, via, stiamo finendo. Carrozzeria Notte, 22-23 marzo, Rita Prongia presenta La Vecchia, commedia malincomica. Ecco, diciamolo un po' così, con Stefano Vercelli, Marco Manchisi, la regia proprio di Rita Prongia, uno spettacolo che parla del senso nefasto della vecchia, con le parole di Rimbaud e col romanesco di Giuseppe Gioacchino Belli. Indagano, il linguaggio trova un limite, oltre il limite andiamo a vedere tutto ciò che si rivela fragile, che viene minato dalla ripetizione del giorno che segue a un altro. Noi uomini dividono un tempo alla ricerca del tempo, dell'istante, di quel tratto che rivela. Una commedia malincomica, appunto, per attori in ascolto, con un cadavere futuro. Molto bella la scheda che ci viene proposta 22-23 marzo alle Carrozzerie Notte. Andiamo al Teatro di Roma però, perché ci sono ben due lavori. Il primo torna in scena 19-31 marzo, Settimo Cielo di Gary Churchill, tratta della regia di Giorgina P. Che porta in scena sette attori sul palco, appunto, del palco del Teatro India, teatro resistente, appunto, come la realtà romana dell'Angelo Mai, che porta in scena questo Settimo Cielo del 1979 della drammaturga inglese Carrie Churchill, un viaggio tra le politiche del sesso vissuto da un gruppo familiare catapultato nell'Africa coloniale dei fine dell'Ottocento, poi insomma nella Londra la rivoluzione sessuale, quindi è attraverso il sesso che viene vissuta la trasformazione della storia. 19-31 marzo al Teatro India per Settimo Cielo di Carrie Churchill. Poi ancora, in realtà questa è la settimana di ben due lavori imperdibili. Il primo è un ritorno, 22, 23, 24 marzo al Teatro Quarticciolo per Vocazione di Danio Manfredini. Danio Manfredini è uno dei più grandi attori italiani viventi, e questo è un suo viaggio all'interno del teatro, dei suoi desideri, delle sue paure, della pratica, del suo mestiere. Io l'ho visto, insomma, un lavoro fatto di tante opere teatrali, frammenti di tante opere teatrali. Questo del repertorio di Danio Manfredini, questo è quello che andremo a vedere il 22, 23 e 24 marzo al Teatro Quarticciolo. E poi, in ultimo, ti porto sul palco del Teatro Argentina, perché 20 marzo, 28 aprile, più di un mese intero per vedere la prima nazionale da Henrik Ibsen, regia di Massimo Popolizio, sarà anche in scena, c'è anche Maria Pagliato e tantissimi altri attori, Un nemico del popolo. Spettacolo che segue, insomma, il grande successo di Ragazzi di vita degli scorsi anni da Pierpaolo Pasolini. Questo è un testo classico, una nuova sfida di Massimo Popolizio, che indaga il tema del potere, della corruzione, della responsabilità etica per l'ambiente, che insomma ha contatto con quello che è oggi, con quello che è la nostra contemporaneità. Effettivamente è un testo da non perdere, da non dimenticare. Quindi, ripeto, 20 marzo, 28 aprile, Teatro Argentina, Un nemico del popolo, Massimo Popolizio da Henrik Ibsen. E questo è tutto. Un abbraccio, Simone, alla prossima. Ciao a tutti. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.